Ragionate con calma. Dividete i litri totali per la perdita giornaliera. Quindi 3.000 litri per 15 litri. Così scoprirete in quanti giorni il ruscello sarà completamente prosciugato.